fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. La vera trasmissione di servizio dell'edizione passata in Melogo fu quella del 20 febbraio 2009, in cui abbiamo dato una formula di felicità a chi vive nel complesso del proprio lavoro infamante. Sturate fogne, sezionate ratti, incatramate le strade. Esiste una maniera ineffabile e di alta gratificazione per definire il vostro lavoro. Ascoltate e avrete la formula della felicità. Abbiamo individuato un increscioso bisogno nel nostro pubblico sul quale noi vogliamo intervenire. Questa mattina faremo vera e propria radio di servizio, andando contro anche una nostra viscerale vocazione alla futilità e all'insipienza. Questa mattina saremo un utility, nel vero senso della parola, per aiutarvi a uscire dall'imbarazzo. Ieri, parlando di tabù, abbiamo capito che il più profondo e il più insanabile tabù che attraversa la popolazione dei nostri ascoltatori è quello di dover dichiarare in pubblico, in società, la propria professione. E non sempre si fanno professioni esaltanti, non sempre sono lavori che la gente sbatte gli occhi e dice: che bello, beato te che ti diverti. Molte volte facciamo dei lavori banalmente normali, come il derattizzatore, lo svuotatore di fogne, l'asfaltatore di strade, lavori con la loro dignità, con la loro giusta, il loro giusto ritorno economico, ma che quando si va in società uno prova difficoltà a esprimere. Beh, questa mattina vi daremo una chiave di soluzione al vostro problema. Voi uscirete al termine di questa trasmissione fieri e non vedrete l'ora di andare da un tipografo a stamparvi un biglietto da visita con una nuova dicitura per la vostra professione. Faccio l'operatore ecologico, cosiddetto spazzino, come comunemente viene definito, con anche con un certo sarcasmo, disprezzo. Faccio questo lavoro da 5 anni, lavoro sempre dalla mattina dalle 6 a mezzogiorno, sempre allo spazzamento, sto da solo con un carrettino, con bidoni eccetera, e spazzo una zona costantemente quella. Ho un discreto rapporto, anche un buon rapporto con molte persone, vengo anche per simpatia, gli offro un caffè, rispetto a molti. E poi c'è sempre il maleducato. Se la persona rispetta il tuo lavoro, significa una persona che in qualche modo anche che ci tiene la pulizia ed è pulita. Una persona che invece non rispetta è perché sotto sotto appunto è una persona sporca. Sarà una banalità, ma è così comunque. Lambimmo ieri anche il problema di questa onorata categoria di lavoratori, che è quella degli operatori ecologici, che hanno già risolto in parte il loro problema, perché non sono più spazzini o scopini o netturbini, ma sono operatori ecologici. Ma anche l'operatore ecologico in sé rappresenta una dicitura professionale non perfettamente adeguata alla presentazione in società, e noi vi faremo fare un passo avanti. C'è l'imbarazzo di avere, di vedere l'imbarazzo negli occhi delle persone a cui lo dici. Rimangono tutti un po' con la classica espressione, dicendo tutti la stessa frase: beh, basta che lavori, pensando che io sia imbarazzato, invece in realtà è molto imbarazzo loro, no? E questo mi urta un po', ecco perché preferirei, quando parlo con le persone, anche persone che non conosco, che non mi chiedessero cosa faccio. Mia moglie mi ha accettato al primo momento senza nessun problema. Tutto sommato guadagno come guadagna tanta gente che fa lavori anche migliori dei miei, per esempio guadagno più di mia moglie. Per terra si trovano dagli sputazzi scontrini, le cicche di sigaretta a tonnellate, i grattevinci, ci sono 2 o 3 persone per esempio che hanno questa pessima abitudine, li riconosco anche dal modo come la cartocciano alcuni, no? So che a quell'angolo domani mattina ci troverò la carta della pizza, queste cose qui, ormai cioè, le persone le conosco bene anche perché nella zona ci lavoro da 3 anni. 800 24 0024. Vi vergognate del vostro lavoro, anche se è un lavoro di cui siete fieri, perché lo fate con coscienza, lo fate con scrupolo, lo fate con attenzione, lo fate con passione. Ma ahimè, esiste una convenzione nella nostra malata società per cui certi lavori uno prova difficoltà a esprimerli. Avete sentito, questo signore, poverino, fa un onorato lavoro, lo fa anche bene, dobbiamo essere grati a lui perché pulisce le nostre strade. Se non ci fosse lui vivremmo in una situazione sgradevole, disastrosa, però qualche piccolo problema. La moglie un po' se ne vergogna di dire che il marito fa l'operatore ecologico o lo spazzino. Ma questa mattina, misteriosamente, noi anche per lui abbiamo una soluzione. Pola, come possiamo chiamarlo? Questo signore cosa potrebbe scrivere sul suo biglietto da visita per non vergognarsi? Mobile tradesperson. Che è assolutamente un'altra cosa. Pola, ve la presento questa mattina, voi già la conoscete, è quella group inglese che una mattina capitò ricoperta di aroma al cioccolato in questo studio, da allora l'abbiamo adottata, è in realtà una raffinatissima operatrice di borsa, lavora alla City di Londra, si chiama, ha un suo nome, capito, si chiama Pola Cappuccini, è di origine italiana, però vive a Londra, ma in particolare questa mattina è in una veste molto singolare in questa trasmissione. Lei dovrà fare la riscattatrice lessicale di lavori vergognosi, professione che in inglese naturalmente ha un nome ben preciso. Qual è il tuo mestiere in questo caso? Linguistic beautician. Ecco, sarebbe quella che fa belli con la lingua i nomi che non sono belli, ecco. E noi, siccome siamo molto provinciali, per il semplice fatto che la nostra professione venga espressa in perfetta lingua inglese, già diventa un motivo di poter mostrare gloriosi il proprio biglietto da visita in occasioni mondane. Pola, cominciamo a mettere in pratica, per far capire di cosa stiamo parlando ai nostri ascoltatori, un po' quello che è il frutto della tua professione. Noi abbiamo preparato una serie di professioni ignominose che ci sono state suggerite nella giornata di ieri dai nostri ascoltatori. Anzi, ricordo che nel mio profilo di Facebook in questo momento è aperta l'iscrizione alla cosmesi professionale, e quindi mandate anche un messaggio scritto se volete. Ci sarà anche la foto di Pola, così la vedete in tutto il suo splendore mentre sta facendo la calzetta, che è il suo passatempo preferito. Ma voi che vi sentite mezze calzette per il fatto che fate un lavoro vergognoso, oggi avrete l'orgoglio e la dignità di mostrare il vostro biglietto da visita. Comincio con un primo lavoro che mi è stato suggerito da un ascoltatore, e poi la farà vedere come meravigliosamente diventerà un'altra cosa. Accoppiatore di allevamenti di maiali. Pola, cosa potrebbe diventare questo signore? Professional swine breeder. Che meraviglioso, non sembra solamente quello che invece deve prendere i maiali, accoppiarli, che è un lavoraccio, anche perché il maiale ha delle particolarità anatomiche molto particolari, è una sorta di cavatappi, quindi particolarmente difficoltoso, ma anche professionalmente stimolante, quindi sarà un? Professional swine breeder. Andiamo avanti. Stoccatore di rifiuti ospedalieri. Ecco, lo stoccatore di rifiuti ospedalieri è quello che deve prendere i rifiuti anatomici, gli avanzi dalle dissezioni, dalle amputazioni, e metterli da qualche parte. Come può chiamarsi questo signore? Medical Waste Supervisor. Che penso che per lui sia una cosa veramente meravigliosa. Andiamo avanti. Accuditore di cani randagi. I cani randagi non è molto piacevole, che spesso hanno la tigna, la rogna, sono spellati, puzzolenti, putrefatti. Insomma, non sono molto belli da maneggiare, anche se sono povere bestie da aiutare. Questo signore però non può dire una sera, quando va con la moglie sul terrazzo dei vicini, cosa fai? Scrosto le croste ai cani randagi. Invece cosa dirà Pola? Dog welfare assistant. Ecco, che è una cosa che naturalmente non potranno che spalancare gli occhi le signore ed essere fiere del lavoro del proprio marito. Andiamo con l'ultimo di questi esempi, poi lo riprenderemo, tanto per farvi dare l'idea. Addetto pulizia e bagni. Ci vuole qualcuno che pulisca i bagni, ci vuole qualcuno che passi laddove noi siamo passati, soprattutto nei non luoghi. Il lavoro è particolarmente gravoso perché passa tanta gente, non si preoccupa mai di chi viene dopo di loro. Cosa puoi dire? Cosa fai te? Pulisco i cessi alla stazione. Mamma mia, che vergogna. Nessuno si accosterebbe più, nessuno passerebbe il vassoio delle tartine in un incontro amici a questa signora. Ma se invece dice che fa questo lavoro? Facilities manager. Che è una meravigliosa cosa. Esattamente, me lo traduci rozzamente. Manager, quindi, di cosa? Facilities. Ah sì, perfetto, bellissimo. Quindi con questo nessuno... ma cosa sono le facilities però in questo caso? Perché noi abbiamo detto si parla di gabinetti. Perché dici facilities? È un modo di spiegare bagno, bathroom. Ah, per spiegarlo in maniera pulita, capito? Quindi io sono un manager di facilities. Mm-hmm. facilito, mi occupo di facilitazione. Ecco, uno potrebbe benissimo pensare che una persona addetta al mondo della finanza. Avete visto com'è facile? 800 24 00 24. Non vi vergognate, dite esattamente quello che è il vostro mestiere. Più ignominioso sia, più lontano dalla percezione, dalla sensibilità comune, e meglio è. Pola è qui come riscattatrice lessicale per il vostro lavoro. Buongiorno Giovanni. Buongiorno signor Nicoletti. Ecco, lei Giovanni ieri ci ha dato l'idea di questa trasmissione. Ricordiamo, il suo problema è che fa un lavoro di cui i suoi amici poi la prendono in giro, vero? Per cui i suoi amici la prendono in giro. Sì, sì. Lei cosa fa di lavoro? È venditore ambulante. Ecco, lei si è mai posto il problema di come chiamare la sua professione? No. Allora, lei da questa mattina sa che può stamparsi un biglietto da visita e i suoi amici potranno soltanto invidiarla? Mi dico Nicoletti, dica. Allora, Pola, al nostro amico Giovanni, che si vergogna, che fa l'ambulante, da oggi in poi cosa può scrivere sulla sua carta da visita? Può scrivere mobile tradesperson. Ti piace, Giovanni? Può fare lo spelling, in verità non l'ho capito, è troppo stretto l'inglese. Diglielo più lentamente. Ok, mobile, M-O-B-I-L-E. Sì. E poi... perfetto, grazie. Ok, prego. Hai capito? Poi se non hai capito ti mandiamo un'email e te lo scrivi. Però fallo veramente. Noi vogliamo vedere il tuo biglietto da visita da lunedì e vogliamo vedere la faccia che faranno i tuoi amici quando avrai raccontato questa cosa. Grazie Giovanni. Grazie mille, signor Nicoletti, non mancherò. Le abbiamo risolto un grosso problema però. Sì, presumo di sì, penso di sì. Il problema è che diciamo le persone si dovranno abituare diciamo a questa cosa. Ma siccome non capiranno esattamente cosa c'è scritto, faranno tutti tanto d'occhi, diranno ah beato, hai cambiato mestiere, beato te, piacerebbe tanto anche a noi fare questo mestiere. Massaggiatore di piedi. Anche oggi mi tocca tenere in mano, stringere e accarezzare i piedi. No, no, non è un lavoro faticoso, ma senza ombra di dubbio non è nemmeno piacevole. Sfido chiunque a dire che sia bello dover stare per 30 minuti seduto su uno sgabello a cercare di provocare piacere e a far rilassare il cliente, che come sempre non si sarà neanche ricordato di lavarsi i piedi, anzi, li avrà addirittura messi per tutta la notte a stagionare insieme a una forma di gorgonzola. Noi vi stiamo dando delle sollecitazioni, questi sono alcuni mestieri che naturalmente vanno a compensare dei bisogni assolutamente primari nella società. Qualcuno deve pur farli. Appaiono come sporchi lavori per chi li fa, ma per chi in realtà ne trae beneficio non sono affatto questi. Quindi con la nostra Pola potremmo senz'altro dare anche a questi lavori una profonda e grande dignità. Allevatore di larve. Il primo giorno di lavoro lo passai nelle fosse dei vermi, una specie di piscina olimpionica piena di carcasse marcescenti di animali e pesci su cui crescevano le larve. Indossavo una tuta e gli stivaloni e il mio compito era stare dentro la vasca e girare ogni tanto con il badile questi esseri informi. A metà giornata non vi dico cosa e come mi sentivo. Io penso che senza arrivare a queste esasperazioni, questi paradossi che pur rappresentano professioni esistenti, perché le schede sono assolutamente veridiche, le abbiamo prese dalla rete, sono persone che in realtà raccontano il loro mestiere. Sono mestieri che esistono, ma senza dico arrivare a queste esasperazioni, basta semplicemente scegliere dei mestieri banalissimi, normalissimi, ai quali noi ricorriamo molto spesso a queste professionalità per capire che c'è un problema e un problema siamo qui per risolverlo. Sandro, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Anche lei fa un lavoro di cui un po' ha difficoltà a dirlo in pubblico, in società? Beh, oddio, sì, mi faccio un po' di difficoltà perché qui da noi è visto ancora come una cosa molto arretrata, la disinfestazione, la derattizzazione, la disinfezione. Ecco, intanto dico a Pola, preparati Pola, questo signore ammazza i topi, preparati, è uno che va in giro con il veleno, con le trappole, con la lupa, con il fucile a canne mozze e ammazza i topi, dove ce ne sono troppi. Sì. Preparati che poi gli direi come può chiamarsi. Ecco, sì. Lei fa il derattizzatore, quindi va in giro, sì, in quei pulmini con il topo, con il teschio disegnato sopra, cose del genere. Purtroppo non lo posso fare perché altrimenti i clienti sarebbero molto contrariati da questo aspetto, diciamo. Dove si ferma il pulmino vuol dire che c'è il problema. Ah, quindi deve anche lavorare oscuramente, mimetico, sì, non può nemmeno dire al mondo, sì, che fa questo lavoro. Sì, sì. E come si maschera? Cioè, quali sono gli attrezzi del derattizzatore? Beh, bisogna nasconderli il più possibile in cassette di plastica, comuni cassette di plastica, potrei essere scambiato per un qualsiasi tecnico, diciamo. Quindi lei fa finta di essere un riparatore di antenne televisive, in realtà è un killer di topi. Sì, esattamente. Ma poi deve smaltire anche i cadaveri dei topi che ha ucciso, quindi sarà ancora più problematico. Sì, è problematico anche dal punto di vista burocratico, perché purtroppo la legge in Italia ha, diciamo, bisogna seguire molte procedure burocratiche anche difficili e complicate. Ma le viene anche imposto un, diciamo, trattamento umano per la soppressione dei topi? Cioè deve usare dei sistemi non cruenti oppure può usare anche tranquillamente il lanciafiamme? No, anzi, assolutamente no. Per ora si può usare ancora il veleno qui in Italia, ma tra poco anche quello sarà soppresso. Ma dà loro tempo di fumarsi l'ultima sigaretta, di dire le ultime volontà, non so, fare l'ultimo pasto. Non muoiono subito, ma purtroppo le sofferenze arrecate dal veleno per troppi giorni... Comunque il suo è un lavoro che richiede esperienza, richiede pratica, richiede un uso attento degli strumenti di sterminio, perché naturalmente non è che può mettere il veleno ovunque. Quindi lei fa un lavoro... totalmente e altamente professionale. Quindi vediamo, Paola, come potrebbe scrivere Francesco Sandro sul suo biglietto da visita per poter andare fieramente alto, a testa alta del suo lavoro. Anti-vermin executive. Executive poi è meraviglioso, ha capito perfettamente lei, no Sandro? Sì, sì. Come no. Ecco, adesso lei potrebbe magari mettere un disegno piccolino di Topolino, anzi no, Topolino no, perché la Disney è molto gelosa dei diritti dei propri personaggi, ma si inventi un po' qualcosa e con questo lei starà tranquillo. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa fa di lavoro vergognoso, in un'accezione banale e comune? Sono un fuori tema, perché io sono un disabile visivo che... si occupa di servizi generali in una SPA. E quindi qual è il suo problema? Vorrebbe che le suggerissimo... No, io non ho problemi, io lo faccio con passione da anni questo lavoro, è per questo che è un fuori tema. Però ero curioso di sapere la definizione in inglese di quella che è la mia mansione o le mie mansioni. Dunque lei è cieco, non vede, e quindi però fa delle consegne. Sono ipovedente. Lo spiego a Paola perché non è padrona così forte. Dunque, questo signore è uno... Low view. È un signore che vede poco. Ah. E va in giro a portare dei pacchi. Vuole scrivere sul biglietto da visita, in una maniera carina, in inglese naturalmente, questa sua professione. Portatore di pacchi che vede poco. Come lo può essere chiamato? Un fattorino. Prende i pacchi e li porta in giro. Com'è che fa? Come lo chiamate? Non lo so. Trasporta. Ricevo i corrieri, di tutto si fa. Trasporta, è uno che trasporta. Prende le cose e le porta da una parte all'altra. Però vede poco, quindi bisogna mettere il biglietto a vista anche questo. Ma transport assistant? Sì, però il fatto che non vede come lo metti. Non lo dici? Ti manca la parola? Sì. Scusa, uno vede tanto. Sì. E uno non vede per niente. Oh, blind quando non vede, ecco. Quando sei cieco. Quasi blind. Semi, come si dice? Hard of sight. Ecco, allora di tutta la frase insieme, così si segna il signore. Ok, hard of sight transport executive. Hai capito? Così va bene, no? I don't like it. Perfetto, bravissimo. Ciao Francesco, siamo arrivati nel senso che vediamo un po' se riusciamo a dare soddisfazione come abbiamo dato a Francesco. Intanto vi suggerisco di chiamare, avrete questa unica occasione, 800 24 0024. C'è qualche difficoltà di simultanea, ma capite, la signora Paola viene dalla City di Londra, si è sempre occupata di borsa, e questa mattina occuparsi del riscatto lessicale delle vostre professioni, c'è qualche problema. Vi vorrei suggerire un altro paio di lavori che ci hanno mandato i nostri ascoltatori. Vediamo come Paola riesce a fare un meraviglioso lifting di queste professioni. Asfaltatore. Lo sai, no, cos'è l'asfaltatore? È come lo si potrebbe chiamare? Tarmac director. È bellissimo, perché è un lavoro in sé importante, ma sai, quando vedi alle 2 di pomeriggio queste persone immerse nel catrame, dici, poverino, fa l'asfaltatore. Invece se io dicessi, oh, guarda che bello quel signore che fa il... Tarmac director. È assolutamente un'altra cosa, come anche per questa persona. Spurgatore di pozzi neri e fogne. Ecco, hai capito di cosa si tratta? Spurgatore, pozzi neri e fogne. Ah, sì, ok. Sewage supervisor. Bellissimo, perché fa il supervisore, in realtà non è che mette le mani dentro alla materia. Sentiamo un altro ancora, che è molto comune, in sé non è vergognoso, anzi è utile, anzi non ne potremmo fare a meno, però molte volte una persona ritegno di dire faccio questo tipo di lavoro. Badante di anziani. Ecco, una persona che si occupa di anziani, badante brutto, poi pensa nel vocabolario italiano, l'Accademia della Crusca, il badante fino a qualche anno fa era la persona che si occupava di greggi animali, era colui che guardava gli animali. Poi da un certo periodo in poi il badante o la badante è venuto soprattutto la persona che viene da un paese straniero e si occupa dei nostri anziani. Come potrebbe essere chiamato il badante? Nursing home agent. Benissimo, abbiamo capito, 800 24 00 24, avete questa mattina una meravigliosa occasione. La riscattatrice lessicale Pola è qui a vostra disposizione. Melog 2.0. Farcitore di tramezzini. Passavo 8 ore in compagnia delle uova. Erano precotte e chiuse in recipienti pieni di un liquido fosforescente orribilmente puzzolente. Dovevo prima lavarle e poi buttarle dentro una macchina che le tagliava a fettine. Il tutto poi finiva in un vaso gigantesco di maionese scadente. Il caldo soffocante rendeva il lavoro ancora più odioso. Tra le altre adorabili operazioni da svolgere, c'erano anche grandi quantità di formaggio schifoso, gommoso, di origine ignota, da grattugiare o miscelare con tonno puzzolente e maionese, in grandi bacinelle di plastica. Arrivavo a sera che la voglia di mangiare era sparita dopo tutto quello schifo che avevo visto e odorato. Inutile dirvi che da allora, appena vedo un tramezzino, ho delle crisi di nervi. 800 24 00 24, abbiamo in studio questa mattina Pola Cappuccini, riscattatrice lessicale, giovane manager inglese, che questa mattina è qui in un ruolo molto particolare: ridare dignità ai lavori che socialmente, per un riprovevole condizionamento, non vengono considerati come dei lavori degni di essere rappresentati in società. Quindi avete sentito il farcitore di tramezzini, che naturalmente si vergogna di dire in giro, sta tutto il giorno in mezzo uova maionese andata male, e altri ne abbiamo sentiti. In particolare devo fare una rettifica, perché mi sarò espresso male, avrò capito male, ho detto qualcosa che ha urtato la sensibilità del primo signore che abbiamo intervistato, il signore che faceva l'operatore ecologico. Ha detto che la moglie non apprezza il lavoro del marito, ha telefonato tendendo a sottolineare che in realtà la moglie è molto fiera. Avevo capito male, ma non se la prenda, visto che questa mattina noi siamo dalla parte di coloro che tendono al riscatto di queste professioni, come nel caso di Manfredo. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Lei dove lavora innanzitutto? Io lavoro a Firenze. A Firenze. A Firenze. Fa un lavoro molto simile a quello che abbiamo appena sentito adesso? Farcitore di tramezzini? No, io faccio in realtà un po' diverso. A Firenze c'è una tradizione plurisecolare di panini con le trippe. Quindi lampredotto, trippa, budella, interiore. Esatto, con tutte le interiore. E per cui niente, poi sto all'aperto, è freddo, eccetera, e ogni tanto quando con qualcuno dice che tu fai, faccio panina al lampredotto, ah che schifo le trippe, ah quella roba puzza, è grassa, per cui ogni tanto insomma ci sono così dei momenti in cui cala l'autostima, no? Per ecco, esattamente il suo lavoro in cosa consiste? A lei arriva già la trippa sventrata, diciamo, pulita? Sì, no, per fortuna adesso si lavora in maniera leggermente diversa, un pochettino più meno puzzolente. Ho visto come si lavora le trippe, devo dire abbastanza, c'è un profumino non troppo esaltante. Beh, certo, Dio, dentro gli intestini non è che ci passa il balsamo di rose, capito? È chiaro. Esatto. Però vanno lavati bene, poi a chi piace. Esatto, poi io quella mattina quando arrivo la prima cosa che faccio è rilavo tutto il lampredotto per essere sicuro che il lavoro fosse stato fatto bene all'origine, e delle volte francamente non lo è, per cui la mattina alle 8, dopo aver preso il caffè, ti senti dei bei profumini e insomma ogni tanto è anche pesante, francamente. Beh, però saranno alla fine, se qualcuno li apprezza questi panini nella fase finale della lavorazione, saranno gradevoli, immagino. Sì, beh, un po' come, che so, la pagliata a Roma. Sì, so bene, guarda, io sono perugino, quindi infatti, ci vanno pazzi per le tartine con i fegatelli di pollo. Io non mi dovrei esprimere, ma ho un ribrezzo viscerale, radicale, fanciullesco per tutto ciò che è interiore. Quindi, però capisco che il suo è un problema. Pola, per questo confezionatore di panini fatti con la trippa e le budella, come potremmo dare un nome dignitoso da mettere nella sua insegna, visto che Firenze è una città turistica? Intestinal sandwich specialist. Ecco, specialista nel fare sandwich intestinali, che Non, tradotto in italiano non viene molto bene, però lei ha capito che questo probabilmente cambierà la sua vita. Antonio, buongiorno. Buongiorno, Antonio. Buongiorno. Qual è il suo problema? No, è un problema per un amico carissimo. Lui lavora nell'esercito. Certo, e fa un amico. Cosa fa il? L'indirizzino. Dunque. Adesso spiego. No, no, lo so perché vengo dalla campagna, diciamolo in maniera corretta. L'indirizzino è colui che facilita l'introduzione del membro equino nella cavalla da fecondare, una cosa del genere. Sì, appunto. Operazione che si fa manualmente ancora. Sì, però adesso usano una vagina dopo artificiale per raccogliere. Esistono dall'Ottocento quelle, degli speculum che servono per questa funzione. Però insomma, diciamo che il suo caro amico, questo amico... È un po' imbarazzato quando va con la sua signora in società, dice cosa fai di bello? Indirizzino magari uno sembra che qualcosa, un impiegato delle poste, ma dice mi spieghi cosa sia? Dice beh io prendo il cavallo infogliato e lo aiuto a possedere la cavalla, non dà proprio voglia di stringere la mano a questa persona. Paola, come potremmo chiamare questo signore? Horse breeding agent. Così è un'altra cosa però, si rende conto? Lei potrebbe benissimo scrivere sulla sua targa del portone, cioè il suo amico, sulla targa del portone questa cosa e va felice. Appunto. Va bene, siamo stati utili, siamo stati utili alla felicità del suo amico, siamo molto contenti. Anna. Buongiorno. Anna, anche lei ha un lavoro che vorrebbe riverginare lessicalmente. Un po' sì, però... E siamo qua per questo, qua non bisogna vergognarsi, come quando si va dal medico, bisogna dire tutto. Lei cosa fa esattamente? Sto facendo proprio in questo momento il mio lavoro. Cioè? Sono addetto alle pulizie, ora sto pulendo in un'officina i WC. Sì. Però la mia difficoltà, diciamo, che è nella diversità, perché nonostante questo lavoro faccio, ho un diploma in counseling, in lavoro d'aiuto, in... relazione d'aiuto. Se gentilmente appoggia un attimo lo scopettino e parla col telefono perché si sente meglio, scusi. Va bene così? Sì, no, per fare due cose insieme, non okay. Perché ci sia vergogna nel farlo, ma... Ok. Ecco, la sentiamo molto meglio. Si metta seduta, tanto già pulito, così può parlare. Ok. Allora io mi nomino raccoglitore di pulizia, così come sono raccoglitori di perle, così io di spazzatura. Con la fisica e con la morale. Quindi lei vorrebbe un bel nome per definire la sua professione, se la mette sì, sul campo. Sì, però c'è un altro problema. Sì. Perché sono anche una poetessa, scrivo una specie di poesia da origine giapponese che si chiama haiku. Beh, sì, conosciutissimo, sono versi brevi sì. E fulminanti. La mia difficoltà consta in questa, riunire tutte queste cose... diciamo, di lavoro e di qualità. Beh, l'haiku racchiude un universo, quindi lei haiku sul via Calle, sullo scopettino, ne avrà fatti a tonnellate? Tonnellate no, però una centinaia ci sono. C'è una regola, diciamo un dogma che la nostra religione ci impedisce di far dire poesia alla radio, se no l'aiuterei. Vediamo, Paola, questa signora, già abbiamo detto, pulisce i bagni, già abbiamo dato il suggerimento, come potrebbe... Però è poetessa, poetessa pulitrice di bagni, come potremmo chiamarla? Facilities manager. Però poetessa. Poetic facilities manager. Ecco, va bene così? Abbastanza, grazie mille. Imprenditrice della pulizia, poetessa. Quindi mi sembra una soluzione senz'altro efficace. L'ammazza salmoni. È stato senz'altro il peggior lavoro che abbia mai fatto. La fabbrica era una fabbrica che produceva salmone affumicato e il mio compito era di mozzare teste di salmoni per 8 ore al giorno. Non passava giorno in cui una mano non finisse nel frullatore insieme al miscuglio di occhi, branchie e quant'altro fosse utilizzabile del salmone. L'aria era irrespirabile e mi chiedo ancora come facevo a trattenere i conati di vomito. Potete poi immaginare che anche una volta a casa, nemmeno 2 ore sotto la doccia riuscivano ad eliminare quell'orrore tremendo. Per via della temperatura artica, ancora oggi quando fa freddo, mi viene l'artrite. Sì, decisamente il salmone affumicato non è tra i miei piatti preferiti. 800 24 00 24. Siamo qui con Paola Cappuccini cercando di dare dignità ai vostri lavori. Esistono lavori che naturalmente sono utili alla società, sono utili alla nostra felicità, sono indispensabili perché continui a muoversi l'armonia universale, però naturalmente è un po' difficile a dirli. Abbiamo ancora in magazzino un paio di professioni che c'erano state suggerite dai nostri ascoltatori. Vediamo, Paola, se diamo a questi due poveri disperati ma orgogliosi lavoratori una occasione per potersi presentare in società. Ablatore di tartaro. Ecco, questo tutti noi ci facciamo la pulizia ai denti, c'è l'igienista, che è quella signora meravigliosa che si mette i guanti e la mascherina e ci toglie la zozzeria dei denti, ma come potrebbe chiamarsi l'ablatore di tartaro se volesse esserne più fiero di questo lavoro? Tartar controller. Bellissimo, sembra un romanzo di Dino Buzzati, sembra il tenente Drogo che guarda la fortezza Bastiani, il deserto dei tartari, ma in realtà è colei che toglie il tartaro dai denti. Vediamo l'ultimo. Collaudatore di preservativi. Ora, questa è una professione che potrebbe prestare il fianco alla facezia e al doppio senso salace, ma in realtà è un lavoro serissimo. Si prende il profilattico, lo si riempie d'acqua, lo si riempie d'aria, si controllano le atmosfere, si controllano le falle, via dicendo. Non è che per collaudarlo uno deve farne l'uso proprio. Ecco, questo signore però, che naturalmente non può andare alle riunioni in parrocchia o non può andare alle gite scolastiche dei figli dicendo cosa fa il tuo papà, collauda preservativi, cosa potrebbe dire? Condom inspector. Sì, tanto detto così potrebbe anche sembrare bello. Ispettore, ispettore, poi non si capisce bene di cosa. Melog 2.0. Ispettore di polli. Io dovevo sorvegliare e ispezionare per tutto il giorno polli rinchiusi in gabbie non più grandi di un metro quadrato. Ogni gabbia delle 500 presenti conteneva circa una trentina di polli, quindi pensate in quanto poco spazio vivevano e cosa non ci fosse nelle gabbie. Quando un pollo si azzoppava o si feriva, i suoi compagni di gabbia cominciavano a becchettarlo, arrivando addirittura ad uccidere il loro sfortunato compagno. Il mio compito? Tirare fuori il pollo zoppo dalla gabbia e tirargli il collo. Non era facile. Spesso stringevo e stringevo così tanto il collo già spezzato della bestia, nel vano tentativo di ridurre gli spasmi post-mortem, che mi ritrovavo la testa in mano. Orrore! Ben presto cominciai ad essere meno zelante nelle mie ricognizioni, lasciando che i polli si ammazzassero tra loro. Come farà questo signore a raccontare agli amici che fa questo lavoro, gli amici, i conoscenti, come farà a muoversi in società, come farà a muoversi in vacanza, come farà ad andare a un circolo, come farà a ingannare il tempo davanti alla macchinetta del caffè? Pensare che sembra che in Italia esistano soltanto due grandi filoni di professioni, l'estremo nord, diciamo l'area milanese, lavorano tutti in pubblicità, sono tutti creativi, vestono tutti di nero, sono tutti molto trendy. Nell'area romana stanno tutti in televisione, tutti bene o male lavorano nell'indotto televisivo, poi vedono gente, poi sono artisti, poi sono creativi, insomma scrivono, collaborano, fanno cose. Ecco, ma invece chi fa lavori come questo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe nascondersi, eppure un lavoro importantissimo. Pulitore di sigmoidoscopio. Questo mio lavoro è durato 3 lunghissimi mesi. Ero in ospedale, reparto sterilizzazione strumenti. Dovevo ripulire i sigmoidoscopi. Per quelli che tra voi non lo sapessero, il sigmoidoscopio è uno strumento che serve per esplorare le cavità anali. C'è bisogno di aggiungere altro? Un lavoro senz'altro utile alla società. L'usereste voi uno strumento del genere dopo che l'ha usato un'altra persona? No, ci vuole qualcuno che lo pulisca. Queste cose vanno dette. Questo signore ha una dignità, questo signore dovrebbe essere fiero di raccontare in società quello che è il suo lavoro. Anzi, dovrebbe tutti chiedere come fai, che prodotti usi, quanto tempo ci metti e via dicendo. Però non può farlo, perché esiste un terribile pregiudizio per cui soltanto alcuni lavori sono raccontabili e altri lavori in realtà sono da tenere nascosti, come se fossero un male ignominioso. Abbiamo, grazie a Dio, questa mattina Paola Cappuccini, riscattatrice lessicale, che ci aiuta a uscire da questo terribile anfratto. Stefano, siamo qui per aiutarla. Qual è il suo mestiere? Sì, buongiorno. Buongiorno, no, non è che abbia bisogno di aiuto. No, noi siamo... Però il mio mestiere è necroforo custode cimiteriale. Vabbè, che è un lavoro normalissimo. Qualcuno dovrà custodire i cimiteri per impedire... Sì, che però non so. Sa com'è, quando passa il carro funebre o cosa, c'è chi si tocca o chi ma pensa un po'. Quando dici il lavoro che fai, cioè... Lei se ne occupa però già quando arrivano al cimitero, non del trasporto? No, quando arrivano. Quindi lei già cose fatte? Sì, diciamo cose fatte. E quindi non è che è responsabile, non ha nessuna, anzi. Responsabilità cimiteriale, insomma, di custodia, e quando ci sono esumazioni e stumulazioni. Ecco, forse quella è la parte che magari la gente non vuole sentirsi raccontare, quando si apre, si toglie, si mette. Sì, sì, sì. Però è un lavoro che va fatto, cioè togli dalla cassa e mette nella cassa di zinco. Sì. Però prima o poi, insomma. Va fatto. Sì, è per tutti. Cioè, tutti passeremo per le sue mani, metaforicamente. No, per le mie no. Anch'io passerò per le mani di qualcuno. Vabbè, ma non c'è nulla. Ecco, questo però fa di lei un filosofo. Nessuno come lei ha questa sorta di massima affissa nella sua coscienza che è memento mori. I padri cappuccini si riempivano di teschi e di scritte inneggianti alla morte per ricordarsi che la vita è un passaggio, bisogna dare importanza alle cose legate all'assoluto, non alle cose legate al contingente. Lei ogni giorno, avendo le mani nelle ossa, se lo ricorda che la vita è un passaggio? Ah, si cerca di viverla al meglio ogni momento possibile. E quindi lei in realtà avrebbe molte cose da raccontare utili, però se vogliamo fare uno sforzo in più e dare anche lei, visto che esiste questa triste ed deprecabile convenzione sociale per cui bisogna avere dei lavori strafighi e che abbiano delle denominazioni in inglese, Paola Cappuccini, vede, Cappuccini c'ha un nesso, è qui per lei. Come potrebbe dire questo signore per definire la propria professione, per non dire io faccio il necrofilo? Cemetery Logistics Manager. Ah, benissimo. Manager, poi quando metti manager va sempre bene. È soddisfatto, Antonio? Stefano? La ringrazio. Sì, grazie sì. A lei e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Zacchi. Pronto? Zacchi, che mestiere fa lei? Ma come nome ve lo dovete dire voi. Allora, io... No, perché io non l'ho mai sentito questo? Non sapevo che esistesse questa professione. Allora, io lavoro a Modena, e la provincia di Modena, e pulisco praticamente il pavimento delle la stazione, delle piazze, dai shower gum che sono attaccati per terra. Ah, lei è specializzato in staccamento di gomme da masticare? Sì, proprio così. Ma dove si studia per fare questo mestiere? Ma a dirti la verità non ci vogliono studi per fare questo mestiere, perché vuole soltanto un bastone e la testa giù e basta. Ah, quindi è un lavoro meccanico, non è che usa i particolari solventi, delle tecniche chimiche? No, abbiamo un pezzo di non lo so come lo chiamo, mi sfugge. Un raschietto, No, io ne ho un bastone. Ah, proprio di legno? Un bastone con un pezzo di attaccato, dove è attaccato un pezzo di un ferro. Sagomato apposta per staccare la gomma? Sì, se non riesce a tirarla via perché ci sono dei filamenti. Sì, usiamo anche un tipo di acido. È un mestiere che richiede comunque una tecnica, non è che uno va lì e stacca la gomma. Sì, deve usare con coscienza il bastone alternato al solvente. Sì, proprio così. E poi le gomme che stacca cosa ne fa? Tutta la giornata a testa bassa, che per me gli primi giorni mi veniva sempre il vertigine, capito? Senta una cosa, mi scusi Zacchi, ma poi le gomme una volta recuperate cosa vengono? Riciclate o vengono eliminate? No, vanno buttate via. E così arriva un altro come lei e le ristacca a sua volta? Sì, vanno nella discarica. Ah, le manda nella discarica. Allora, vediamo se Paola Cappuccini può aiutarlo. Paola, questo è un mestiere di cui non sapevamo l'esistenza, quindi una nuova professione. Quindi merita un nome adeguato. Lo staccatore di gomme, come potrebbe chiamarsi? Io direi chewing gum controller. Chewing gum controller. Ti piace? Sì, I like it. Bravo, bravissimo. Buon lavoro. Daniele. Sì, buongiorno. Ecco, io non capisco perché il suo mestiere lo consideri un mestiere a cui bisogna cambiare nome. È un lavoro tanto bello. Sì, no, ma premetto, mi piace tantissimo il lavoro, è che solo quando uno si va a presentare... Ma ci spieghi qual è il suo lavoro? Ah, sì, faccio l'imbianchino. L'imbianchino? A Firenze. Decoratore non già sarebbe... Sì, ma non, cioè, in realtà faccio proprio l'imbianchino... Da solo lavoro. Il bianco, hai capito, sì. Basilare. Sì, ma più che altro il fatto è che quando mi presento, no, con una ragazza o in chat o comunque vado fuori... Cioè, presentarmi come un bianchino... È pesante, sì. Sì, magari in inglese... Potrebbe sempre usare la battuta di una nota reclam legata appunto al pennello, però... Cingale. Forse sì, ecco, però non credo che sia adeguato. Guardi, c'è un pregiudizio storico. perché Hitler faceva l'imbianchino, per un periodo della sua vita ha fatto l'imbianchino, quindi ahimè questa onta lambisce ancora tutta la categoria onorata degli imbianchini. Ma noi vogliamo aiutare le sue relazioni sentimentali questa mattina, e Pola Cappuccini anche per l'imbianchino avrà una buona parola. Pola, fai uno sforzo particolare, questo signore è un problema più complesso. Il suo non è un mestiere come lo staccagomme, il pulisci cessi e togli tartaro o lo scaricamorti. Fa un lavoro normalissimo che non avrebbe nessun tipo di pregiudizio, se non il fatto che quando esce con delle ragazze vorrebbero che lui facesse, non so, come Fabrizio Intonti, l'autore, il filosofo, come Paolo Corleoni, il tecnico audio. No, in realtà fa l'imbianchino, non si può fregiare di queste gloriose professioni. Come potremmo chiamarlo? Ok, Building Aesthetics Director. Vabbè, bellissimo. Hai capito, Daniele? No, non molto. Perché ripetilo bene, molto lentamente, visto che siamo in chiusura. Ok, ci sono tre parole. Building Aesthetics Director. Ecco, con questo stai sicuro, Daniele, nessuno riuscirà a resisterti. L'appuntamento è a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111.